Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Non si placa quello che ieri abbiamo definito un assedio, forzando un po' l'immagine nei confronti della legge di stabilità, che vale la pena ricordarlo, è una legge, non è un decreto legge, quindi non è immediatamente attuativo dal punto di vista legale, cioè dopo 60 giorni dalla pubblicazione della Gazzetta. È una legge, va fatta passare in Parlamento. Allora, anche oggi varie dichiarazioni sia del segretario del PDL Angelino Alfano sia del segretario del PD Pierluigi Bersani, dopo gli incontri che ambedue hanno avuto con il ministro Grilli e con il presidente del Consiglio Mario Monti. Questo nel giorno in cui l'OCSE ci racconta che l'Italia è al top, e voi direte finalmente al top per qualcosa. Sì, per le entrate fiscali siamo nella media dei paesi OCSE e le entrate fiscali sono pari al 34% del PIL. In Italia siamo 9 punti più in alto, al 42,9%. Praticamente ci sono solo il Belgio in terza posizione, la Francia e la Danimarca prima di noi. Nel caso della Danimarca, devo dire anche della Francia, quelle tasse, però a quelle tasse corrisponde tutto un altro genere di servizi. Ancora parleremo delle dichiarazioni di oggi del ministro Grilli, che ha detto tra le altre cose le entrate nei primi 9 mesi sono in linea con il 2011, la lotta all'evasione la faremo senza disturbare gli onesti, e ci dovrà essere comunque un contributo da parte dei cosiddetti ricchi, contribuenti più abbienti, del 3%, oltre 150.000 euro, per trovare i soldi per gli esodati, perché la Commissione del Lavoro della Camera ha approvato un emendamento alla legge di stabilità che amplia le garanzie per gli esodati. La proposta adesso dovrà essere esaminata dalla Commissione Bilancio di Montecitorio, e comunque è anche passato appunto l'emendamento che prevede un contributo di solidarietà per tutti quelli che guadagnano più di 150.000 euro, pari al 3% per la parte di reddito che supera chiaramente i 150.000 euro. Parleremo di questo, parleremo delle vicende europee, invece l'accordo fatto in Grecia tra la Troica e il governo greco, e invece le preoccupazioni che arrivano dalla Germania. L'indice di fiducia dei consumatori è sceso a 100 punti e soprattutto l'andamento dell'indice che misura l'attività dei servizi in Germania è sceso a 45 punti contro i 46 punti. La cosa importante da dire è che la contrazione sia nel settore servizi che nel settore manifatturiero in Germania è stata più forte delle previsioni. Questo ha anche spaventato le borse, borse che adesso però sono tutte positive, più 0,80% Milano, più 0,50% Parigi, più 0,30% Francoforte e più 0,22% Londra. L'America sta aiutando con uno 0,33% di rialzo. Tra i titoli citiamo ST Microelectronics più 3,80%, Saipem più 2,15%, Finmeccanica più 2%, Parmalat più 1,80%, Enel Green Power anch'essa più 1,80%, Campari più 1,60%, e il Banco Popolare Fiat 1,5% percentuale, di Assorin, Autogrill e Ansaldo, ma anche Eni e l'Emilia Romagna, l'1,3% di rialzo. Fronte opposto, Ferragamo e Telecom Italia meno 0,80%, Prismian meno 0,70%, Generali meno 0,60%. 349-238-6666 per i vostri sms. Ci occuperemo oggi anche del mercato della casa, perché dopo mesi o anni in cui continuavamo a vedere calare le compravendite, che vuol dire il numero di acquisti e vendite, ma non necessariamente i prezzi, si diceva sempre prezzi stabili, oggi invece è arrivato il dato che molti proprietari di casa non avrebbero voluto vedere, magari chi le vuole comprare invece sì. C'è il dato ufficiale in termini annuali: il prezzo medio delle abitazioni acquistate dalle famiglie italiane è sceso di quasi 2 punti percentuali, e va tenuto conto poi anche dell'inflazione, per cui si arriva oltre il 4%. La cosa interessante è che il calo forte è del 3,6% sulle case già esistenti, che vuol dire che in alcuni casi i cali sono stati del 7-8%, a cui, ripeto, va sommata poi l'inflazione in termini reali. Mentre le nuove case sono in rialzo, più 2,8%. C'è comunque, il dato Istat, un'accelerazione della discesa dei prezzi. Tra l'altro, il fatto che le case nuove abbiano avuto prezzi in rialzo dipende, secondo l'Istat, soprattutto anche dall'utilizzo di dei criteri di realizzazione, tra cui i materiali. Comunque di questo parleremo nel corso del programma. Adesso però le notizie in breve. Sullo scenario economico è intervenuto oggi sia Warren Buffett, che è il guru considerato della finanza mondiale. In un'intervista alla CNBC ha detto: in Europa c'è un problema reale del sistema bancario, ma non c'è dubbio che a livello mondiale stiamo assistendo a un nuovo rallentamento. E poi Mario Draghi, che ha detto: ci attendiamo che l'economia resti debole nel breve periodo. E comunque il fondo salva stati non è un aiuto camuffato ai governi. La disoccupazione in Europa è eccezionalmente alta. Quanto ai debiti però dell'area europea, praticamente siamo la media dell'Unione Europea, 17, ha un debito che pesa per il 90% sul PIL, è il 90% del PIL, ed è purtroppo salito ancora in Grecia. Il debito greco è il 150% del PIL, nonostante l'haircut, cioè l'avere tagliato il valore del debito. Ricorderete, nell'operazione di rimborso si è avuto poco più del 50% di debito greco, chi aveva preso soldi alla Grecia. Nonostante questo taglio, che aveva fatto scendere nei primi 3 mesi dell'anno il debito al 137% del PIL, adesso è tornato il debito greco al 150% del PIL. Balzo in avanti anche per il debito portoghese, passato al 117% del PIL, quello irlandese al 111%, e anche la Spagna, che è ancora messa bene rispetto all'Italia, però è balzato il debito sul PIL al 76%. L'Italia invece ce l'ha al 126%, è seconda solo la Grecia quanto a debito rispetto al suo PIL. Dicevo, di Grecia parleremo perché c'è l'accordo anche tra il Ministero delle Finanze e la Troica. Mentre per quello che riguarda l'Italia, il Presidente della Repubblica Napolitano ha detto: non c'è all'ordine del giorno nessuna richiesta di aiuto alla Banca Centrale Europea da parte dell'Italia. Fino ad ora l'Italia non ha ricevuto un solo euro di aiuto, non ne ha avuto bisogno, non è prevedibile o non è all'ordine del giorno alcuna richiesta. Noi cerchiamo soltanto di fare in modo, e credo che sia un interesse comune dell'Europa, che il mercato dei titoli del debito pubblico, del debito sovrano, sia un mercato stabilizzato. Napolitano è intervenuto anche sulla vicenda Finmeccanica, vicenda che in borsa, lo ricordavamo già ieri, ha pesato un po' ieri, oggi al contrario il titolo guadagna l'1,60%, però ieri appunto si è saputo che l'ex ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola è indagato con l'ipotesi di reato di corruzione nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Napoli sulla fornitura di 11 navi militari fatte dalla Finmeccanica al Brasile. E i PM si concentrano in particolare su una presunta tangente da 550 milioni di euro, l'11% sostanzialmente di un affare che valeva complessivamente 5 miliardi di euro. Su questo durissimo l'intervento del Presidente della Repubblica. Abbiamo un interesse comune con questi nostri paesi amici a ristabilire la verità e a sanzionare delle deviazioni, se queste deviazioni risulteranno confermate dallo sviluppo dei procedimenti giudiziari in corso. Bocche cucite invece sia da parte del ministro dell'economia Vittorio Grilli sulla vicenda Finmeccanica che del ministro dello sviluppo economico Corrado Passera. Ha detto non commento il ministro Grilli, e Passera ha detto non si parla fino a quando non saranno prese delle decisioni. E mentre continua, diciamo così, l'attività della magistratura, l'arresto della storica segretaria del segretario del PD Pierluigi Bersani, Zoia Veronesi, indagata dalla Procura di Bologna per truffa aggravata ai danni della regione Emilia-Romagna, ma anche arrestato l'architetto Sarno per quello che riguarda le tangenti a Sesto San Giovanni nell'ambito dell'inchiesta dove è implicato e indagato l'ex vicepresidente del Consiglio regionale Filippo Penati. Dicevo, mentre continua l'inchiesta della magistratura, noi continuiamo purtroppo a raccontare spese, ma non solo spese, anche atteggiamenti assurdi. E poi abbiamo anche un piccolo approfondimento sui figli dei ministri, che sono poco spocchiosi, poco schizzinosi, poco ciusi, per dirla con il ministro Fornero. È chiaro, lo dico senza polemica, che nel momento in cui si fa questa dichiarazione poi uno va a vedere bene che cosa fanno i tuoi figli, perché uno fa il ministro, deve stare attento con questa situazione, a parlare, a dire che i giovani non vogliono, o hai dei dati alla mano, e ieri abbiamo dimostrato, dati la mano, che il 70% degli intervistati in un sondaggio con 3.500 giovani diceva che era disposto a prendere qualunque tipo di lavoro, anche non quello per cui si era formato, o se no si rischia sempre di cadere nei luoghi comuni di una generazione che magari conosce poco quel giovane, e tra l'altro poi di venire sì sottoposti ai raggi X. Comunque iniziamo con la nostra rubrica fissa, speriamo ancora per poco, di come vengono utilizzati i soldi pubblici, di come viene scelta la futura classe dirigente. Partiamo oggi dalla Sicilia, perché la Sicilia fra 5 giorni va a votare, e voi direte, dopo che è passato il disegno di legge sulla corruzione, dopo gli scandali di questi mesi, dopo l'inchiesta della magistratura, le liste della Regione Sicilia saranno liste a prova di qualunque tipo di inchiesta e di qualunque tipo di neo o scheletro negli armadi, specchiate, sì, specchiate. A passare potrebbe più la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag e più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues, drag e più. Allora, alla faccia di presentare una politica dalla faccia pulita, senza nessuna ombra, dubbio, anche se uno è indagato all'estero, sappiamo cosa succede, si dimette, dimostra la sua innocenza e poi si ricandida. Pensate che a 5 giorni dal voto in Sicilia gli indagati, gli imputati e i condannati che comunque vogliono presentarsi come consiglieri regionali, vogliono essere votati, sono ben 32. Il Grande Sud, il partito di Miciche, ha candidato a Palermo Franco Mineo, attualmente sotto processo perché è accusato di essere un prestanome di un esponente dei Galatolo, famiglia mafiosa dell'Acqua Santa. E poi ci sono 3 ex consiglieri regionali finiti in carcere nell'ultimo scorcio di legislatura e tuttora indagati. Nelle liste del Movimento per l'Autonomia di Raffaele Lombardo c'è anche il tentativo di Riccardo Minardo, rinviato a giudizio per truffa all'Unione Europea, e altrettanto Fabio Mancuso, inquisito per reati finanziari. Anche Cateno De Luca, che è finito in carcere per 15 giorni nel 2011, sarà provvedimento ingiusto per la Cassazione, ma resta un'inchiesta per abuso di ufficio, tentata concussione e falso. Addirittura De Luca si vuole candidare alla presidenza della Regione Siciliana. E poi Giuseppe Drago, ex sottosegretario del governo Berlusconi, nel 2010 ha dovuto rinunciare allo scranno dopo la sentenza della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 3 anni per peculato. Quando era presidente della regione ha utilizzato in modo improprio 123.000 euro di fondi riservati. Ed è giustamente, ha trovato un posto, visto il precedente, nella lista PID Cantiere Popolare di Saverio Romano. È in corsa anche Giuseppe Buzzanca del PDL, già sindaco di Messina, malgrado una vecchia condanna per peculato d'uso passata in giudicato, che gli deriva da un viaggio in auto blu con la moglie in Puglia per partecipare a una crociera. Scusate la voce anche oggi. A Catania in lizza due ex assessori della giunta Scapagnini, Mimmo Rotella e Giuseppe Arena, entrambi condannati in primo grado per falso in bilancio. E anche una grana giudiziaria ce l'ha Rosario Crocetta, portabandiera dell'alleanza PD-UDC. E poi a Messina il consigliere dell'Italia dei Valori, Francesco Pettinato, indagato nell'ambito di un'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose nel comune di Fondachelli Fantina. E poi FLI, due indagati, Mario Bonomo, capolista a Siracusa, con l'accusa di voto di scambio, che riguarda anche concussione. Nel caso di Bonomo, voto di scambio invece per Nino Reitano, ex consigliere provinciale di Messina. Beh, che dire, dire che insomma forse non candidarli, io capisco, ma ci saranno altre risorse possibili. In alcuni casi sono sentenze passate in giudicato, in altre condanne in primo grado, in altre comunque indagini e inchieste. Mi sembrerebbe il minimo. 32 all'ultima conta, quelli che potrebbero essere consiglieri della Regione Sicilia con, in alcuni casi, dubbi seri, in altri sospetti, in altre certezze. Io non lo so se si può andare avanti così, ma attenzione, perché adesso avrei bisogno di un tango della Maiella per parlare della regione Lombardia. Ma sì, dai. Allora, complimenti a gli ex assessori regionali della Regione Lombardia, Marcello Raimondi, Alessandro Colucci del PDL, il leghista Daniele Bellotti e gli ex sottosegretari Paolo Alli e Massimo Zanello, Paolo Alli del PDL, CL e Massimo Zanello della Lega. Perché? Perché otterranno nel totale, con un decreto già firmato, una liquidazione di 215.000 euro. Perché? Sono 40.000 euro a testa. Perché avevano rinunciato all'auto blu. No, conviene. Ma insomma, di taxi forse non li fai 40.000 euro. Non lo so. Forse sì, non lo so. Ma insomma, nulla. Allora, la regione aveva detto che non vi sarebbe stato più compensazione per chi rinunciava all'auto blu, ma solo dal 1 gennaio. Di quest'anno, e vale solo per i consiglieri, non per gli ex assessori. Nel frattempo meno 10% le segretarie della regione prendono 10% in meno, ma gli assessori sono passati da 16 a 11, ma e i sottosegretari da 4 a 1. È vero, però prima gli assessori erano quasi tutti consiglieri, adesso è tutto un fiorire di esterni pagati a fine mese, perché da consigliere, sei consigliere, diventi assessore, ti vengono pagate solo indennità che spettano agli eletti, e la cifra si aggira sugli 8.000 euro. E adesso arriviamo a, invece, senza base della Maiella, alla nota che riguarda cosa fanno le figlie i figli dei ministri. Dopo quella frase, a mio avviso, infelice, ma insomma, del ministro Fornero, che si può anche ragionare se è vero o no che i giovani di adesso siano più schizzinosi, meno pronti a fare tutto, sicuramente per certi lavori abbiamo ancora flussi di immigrazione. Il problema è che non lo si può dire in questo momento, in quel modo, senza dati alla mano, solo come sensazione, perché si passa per essere un po' alieni nella realtà, un po' professorali, un po' così, snob, si può dire, un po' snob. Allora, i figli dei ministri sono poco schizzinosi, questo lo do per certo, perché in un paese dove il 78% dei lavori viene trovato per segnalazione, il dato è dell'Eurostat, e anche lì bisognerebbe capire, uno può essere poco schizzinoso, ma se il 78% dei lavori viene trovato con una segnalazione di qualcuno... Però se si è figli di banchieri, professori universitari, rettori, presidenti di consigli di amministrazione, prefetti, manager pubblici e anche gli attuali ministri, non c'è bisogno di essere schizzinosi, perché il lavoro arriva e coi fiocchi. Allora, Maria Maddalena Nudi, il padre è ministro Nudi, è diventata socio dello studio Nudi, perfetto, tutto bene, però voglio dire, attenzione prima di parlare, va benissimo che il figlio faccia il lavoro del padre, sei bravo. Se il padre è convinto, va benissimo, sarà vocazione, ma Eleonora Di Benedetto, avvocato, 35enne, e la madre, Paola Severino, è ministro della giustizia e lavora nello studio Severino. Costanza Profumo, brillante architetto, laureata al Politecnico di Torino, è figlia del rettore del Politecnico di Torino, Francesco Profumo, che attualmente è ministro all'istruzione, e ha lavorato nello studio newyorkese dell'archistar Limskind, Daniel Limskind. Carlo Clini, figlio del ministro dell'Ambiente Corrado, è rimasto in Europa e coordina i progetti per la Regione Veneto. Carlo Malinconico, lo ricorderete, si è dimesso per una vacanza pagata da altri, non sapeva di averla pagata, che gli avessero pagata. Suo figlio Stefano è avvocato e ha fatto pratica nello studio Malinconico, quello del padre. Poi ha trovato il lavoro al ministro dell'Ambiente, dove era direttore generale Corrado Clini, ex collega del governo, e quindi l'antitrust quando il presidente era il sottosegretario Catricalà, ex collega del padre nel governo Monti. E poi ancora, il segretario Catricalà, che ha gestito l'antitrust per 6 anni, ha una figlia che è in una società terna partecipata dal Ministero dell'Economia. E voglio andare avanti, Luigi Passa, figlio del ministro Passa, dopo laurea in Bocconi, come il padre, si è occupato di marketing per la Piaggio, dove anche lì, società di Roberto Colaninno, parte dell'amministratore delegato di Intesa nella corte di salvataggio all'Italia. Allora, e di Monti Junior invece abbiamo perso le tracce. Si sa però che la seconda figlia di Monti, Federica, ha lavorato nello studio Ambrosetti, quello del forum Ambrosetti di Cernobbio, ha sposato Antonio Ambrosetti e via così. Non c'è nulla di strano, c'è poi Giorgio Peluso, figlio del ministro Cancellieri, già assunto direttore di Unicredit, poi di Fondiari Assai e adesso da Telecom Italia. Non c'è e della figlia del ministro Fornero, abbiamo già detto. Allora, che è una cattedra all'Università di Torino dove madre e padre insegnano e lavora in una fondazione finanziata da Banca Intesa dove la madre era nel consiglio di sorveglianza di Intesa San Paolo. Allora io dico una cosa, tutte queste cose sono corrette, non c'è niente di male, ci sono tanti imprenditori, tanti giornalisti che sono figli di giornalisti e via così, tanti avvocati, figli di avvocati, un po' tanti in Italia, si parla di ascensore sociale bloccato, insomma il 40% degli avvocati figli di avvocati, il 44% di architetti figli di architetti e via così. Ma andare a dire che il resto dei giovani sono spocchiosi, sono poco ciusi, quando obiettivamente chi ha ruoli di potere ha anche magari qualche possibilità in più per i suoi figli, significa fare un autogol clamoroso oppure pretendere che tutti gli altri comunque debbano sempre restare allegri. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. Oh, beh! Vabbè, so che qualche grana mi arriverà, ma insomma sono tutte cose note, ma non c'è niente di male nell'avere un figlio che fa il tuo lavoro, anzi, delle volte se hai respirato una certa aria in casa, magari sei anche più vocato, hai un aspetto vocazionale più forte. Io personalmente ho avuto un padre che faceva tutt'altro, ma ognuno fa quello che vuole nella vita. Il problema è non dire, ah, bisogna essere meno schizzinosi, quando tu sai, diciamo, che hai altre possibilità, canali di accesso, no? Vincenzo Miglietta, occupiamoci invece di chi un problema ce l'ha in questo momento, si chiama ministro Grilli, che ieri abbiamo definito sotto assedio, questa mattina conferenza stampa del segretario del PDL Angelino Alfano e del PD Bersani, ma anche audizione della Confindustria oggi. Allora, intanto le richieste dei due principali partiti che sostengono questo governo. Sì, buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Le richieste, Sebastiano, sono abbastanza simili. Da Popolo della Libertà e Partito Democratico arriva la richiesta di modificare la legge di stabilità per renderla, dice Alfano, meno recessiva. Il PDL punta soprattutto affinché non ci sia l'aumento di un punto percentuale dell'IVA e perché venga rivisto tutto l'intervento sul taglio delle cosiddette agevolazioni fiscali, delle detrazioni, che non vi sia la retroattività previsto dalla legge di stabilità. Il Partito Democratico fa richieste simili, puntando soprattutto affinché venga tolto il capitolo dei tagli alla scuola e il famoso innalzamento anche dell'orario scolastico degli insegnanti. E Bersani, lui dice, va rivisto anche il capitolo delle detrazioni. Quindi su questi argomenti il PD viaggiano abbastanza su linee parallele, però con motivazioni diverse. Bersani ricorda che Monti in fin dei conti sta facendo quello che sta facendo perché si è trovato un'eredità che arriva dal governo Berlusconi, mentre Alfano quell'eredità lì non la ricorda e dice. ...17:40 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, sorrido perché alcuni dicono: ah, populismo, becero, qualunquismo. No, attenzione, adesso poi torniamo alla legge di stabilità. Sulla necessità per i giovani di essere flessibili, di adattarsi, di non essere innamorati del posto fisso, abbiamo fatto decine di puntate, abbiamo avuto anche ospiti, alcuni imprenditori che, pur offrendo lavori assolutamente degni, magari un po' manuali, non trovavano nessuno che venisse, che rispondesse, solo extracomunitari. Questo è un elemento. Dopodiché, e spesso abbiamo invitato ad essere meno duri, il problema è che bisogna sempre stare attenti a qual è la fonte che lo dice, perché se lo dice un manager che si è messo in gioco tutta la vita, che ha cambiato 10 lavori e quant'altro, è una cosa. Se lo dico io e pontifico io, che magari sono assunto a tempo indeterminato al Sole 24 Ore, beh sì, lo posso dire, però uno ti può rispondere: comodo dirlo dalla tua posizione. Se lo dice un ministro nel momento in cui abbiamo il 25% di disoccupazione giovanile, in cui, diciamo, ci sono state tutte insieme di riforme che non hanno esattamente per ora aiutato il mercato del lavoro, sembra un atteggiamento spocchioso, perché, voglio dire, se non verrà mai percepito come tale, per favore. È solo questo il tema, l'opportunità o meno che venga detto in questo momento da un ministro del welfare. Secondo me è un boomerang colossale. Detto ciò, andiamo a parlare dell'assedio a Grilli, il quale ieri ha sostenuto di nuovo il 99% degli italiani, dei contribuenti, beneficeranno di questa manovra. Gliel'abbiamo detto vis-à-vis quando l'abbiamo moderato 2 giorni fa a Verona. Lo ripetiamo adesso: a noi, con il calcolo del Sole 24 Ore a mano, risulta che la differenza tra manovra sull'IRPEF, riduzione di 2 aliquote di un punto percentuale, manovra sull'IVA, aumento dell'IVA di un punto, riduzione retroattiva di alcune detrazioni fiscali con l'aumento della franchigia, vada a colpire soprattutto le famiglie con più figli e con un gettito complessivo per lo Stato in più di 2 miliardi e 300 milioni, quindi 2 miliardi e 300 milioni in più di tasse. Questi sono i numeri che abbiamo noi elaborato. Però torniamo a vedere che cosa hanno detto oggi gli altri soggetti, partiti, ma non solo. Partiamo dalla politica. Il segretario del PD Bersani, al microfono del nostro appunto Vincenzo Miglietta, che abbiamo appena ascoltato, sulle modifiche possibili. Il governo ha detto qualche modifica si può fare, basta che i saldi, cioè le entrate e usciti, le entrate e le uscite, restino invariate. Un incontro buono, devo dire, dove attualmente ho avuto modo di esporre le mie ragioni e di sottolineare i problemi che vediamo e le soluzioni possibili nell'esame di questa legge di stabilità. Stanno girando norme in Parlamento che sotto questo profilo sono francamente da modificare. È possibile con gli stessi saldi, bisogna farli con gli stessi saldi. Io vorrei ricordare che questo governo, con tutti i difetti che può avere, sta cercando di mettere rimedio degli impegni che ci siamo presi, non noi, il governo d'allora, di un pareggio di bilancio 2013, mettendo lì 20 miliardi di IVA in più. Adesso bisogna affrontarla questa situazione, quindi non è semplice per nessuno. Ho trovato un monte disponibile, attualmente il governo è affezionato ai saldi, come siamo tutti noi, è affezionato anche a cercare di dare qualche segnale, insomma, che sul tema del cuneo fiscale, del costo dell'oro, possa esserci un primo intervento, e quindi si è ragionato, diciamo, in modo serio, devo dire, serio, e quindi secondo me gli spazi ci sono per trovare un punto di caduta. E poi Bersani ha continuato, attenzione con i numeri, bisogna capire a quali categorie di numeri ci si riferisce, perché se si guarda solo all'IRPEF ci possono essere certe percentuali, ma se si considerano le detrazioni e l'IVA i conti cambiano. Critico anche il giudizio del segretario del PDL Angelino Alfano, che ha detto il primo aspetto è la recessività della manovra, cioè che aumenta la recessione in atto, e se resta l'aumento dell'IVA. Il secondo aspetto riguarda il taglio delle detrazioni. Risorse per finanziare la crescita devono essere prese dai tagli alla spesa pubblica, soprattutto alla spesa pubblica improduttiva, e dall'abbattimento del debito. Questi due sono i contenitori dai quali si può attingere per finanziare nuova spesa. Le prime due nostre richieste al governo sono la eliminazione dell'aumento di un punto dell'imposta sul valore aggiunto, cioè dell'IVA, e la eliminazione della retroattività delle detrazioni, o meglio della revoca della retroattività delle detrazioni. E appunto dicevamo che anche la CEI, quindi i vescovi italiani, hanno chiesto di alleggerire il peso fiscale e di smetterla con i sacrifici alle famiglie. Dopo il traffico ascolteremo anche la posizione di Confindustria su questo, non torniamo più sul tema del CIUSI, dei giovani che non hanno voglia di mettersi in gioco. Ho detto mille volte che il tema c'è e c'è tutto, quindi non è sbagliato il contenuto di quello che ha detto il ministro Fornero, è sbagliato a mio avviso che l'abbia detto il ministro Fornero in quell'occasione senza dati alla mano e dando l'impressione di non capire altri tipi di difficoltà. Fine, non è che il tema non ci possa essere, su. Anzi, però mi sembra che più avanti sta crisi, più molti giovani, perché insomma uno deve anche conoscere un po', si adattino a tutto. Dobbiamo anche ricordare che questa è una generazione di giovani che è chiamata 1.000 euro. Allora mettiamo assieme tutte le cose, mettiamo assieme il fatto che magari non vogliono fare i lavori manuali che fanno gli extracomunitari, ma il fatto anche che si stiano adattando a stipendi che la generazione mia avrebbe rifiutato, o meglio, sapevi che quei 1.000 euro o 1 milione di lire dopo poco diventavano 1,5, 2, cioè avevi altre attese. Qui sono fermi gli stipendi a 1.000 euro. Allora non generalizziamo su tutto, sennò poi si casca chiaramente nell'effetto boomerang. Di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni, adesso arriviamo alla borsa, però prima vorrei concludere il giro di commenti sulla legge di stabilità, perché oggi appunto in audizione al Parlamento sulla legge di stabilità il direttore generale di Confindustria Marcella Panucci, che ha detto in sostanza aggrava il peso fiscale sulle imprese e avranno effetti, ci attendiamo effetti modesti dal calo dell'IRPEF, e a questo punto occorre intervenire sul cuneo fiscale. Oneri fiscali e contributivi rappresentano per le imprese il 68% dei profitti. C'è una idea apprezzabile, che è quella di spostare, di redistribuire il carico fiscale spostandolo dalle persone sulle cose. Per altri è apprezzabile che l'aumento dell'IVA sia solo di un punto e non di due. Tuttavia l'intervento sulle persone ha un impatto molto modesto, e per questo noi riteniamo che invece le poche risorse disponibili che ci sono e che sono realizzabili attraverso la spending review e speriamo anche attraverso l'evasione fiscale possano essere concentrate sulla riduzione del cuneo fiscale, perché questo avrebbe un impatto molto più rilevante. Ovviamente si tratta di avviare un percorso di riduzione destinando alla riduzione del cuneo fiscale le risorse attualmente, ma anche che in futuro si renderanno disponibili. E questo avrebbe un impatto rilevante sulle persone, quindi sui lavoratori e sulle imprese, ed anche un effetto rilevante in termini di occupazione. C'è una valutazione positiva sul Mezzogiorno? Sì, perché in realtà, al contrario che in passato, i tagli sul Mezzogiorno sono stati di misura molto più contenuta. E adesso invece la borsa, vedremo che cosa, come verrà cambiata, emendata la legge di stabilità in Parlamento. Dicevo, la borsa, ma soprattutto in questo caso la vicenda auto. Auto che ha a che fare anche con la borsa, perché sono arrivati dati non belli da Volkswagen, utile in calo nel trimestre del 19%, il peggior calo dal 2009. E ancora Peugeot ha rinunciato a dividendi e alle stock option per i manager. E il titolo è sceso ai minimi in borsa in Francia dal 1986, anche perché Peugeot deve mettere a disposizione 11 miliardi e mezzo, secondo, di cui un miliardo aggiuntivo. E tra l'altro lo Stato non è presente nel capitale di Peugeot, però metterà una garanzia di 7 miliardi di euro su 3 anni, su cui molto si sono arrabbiati i tedeschi, lo Stato tedesco della Bassa Sassonia, che è il secondo azionista della Volkswagen. E infine Ford intende chiudere lo stabilimento di Genk in Belgio, dove lavorano 4.300 persone. Questo per quello che riguarda le notizie del settore auto. Poco impatto, anzi nullo, diciamo, oggi su Fiat, che ha chiuso in rialzo dell'1%. Molto bene soprattutto ST Microelectronics, più 4,17%. Chiara Di Cristoforo, buonasera. Buonasera Sebastiano, buonasera. Radio Corriere Sole 24 Ore, bentornata. Grazie Sebastiano. Allora, ST Microelectronics. Sì, ST è la stella del listino oggi, chiude con un rialzo di oltre il 4%. In realtà, un po' come tutto il listino, stamattina era in altalena. I conti erano in linea con le attese, ma in linea con le attese parliamo di una perdita di 478 milioni, quindi conti non certo brillanti, ma nulla di sorprendente. Il mercato è rimasto un po' deluso dalla guidance, dalle previsioni per il quarto trimestre, un po' al di sotto delle attese, ma si è concentrato in realtà nella seconda parte della giornata soprattutto sulla riduzione dei costi, un piano di riduzione che porterà a risparmi annui di 150 milioni di dollari entro la fine del prossimo anno, comprendendo il taglio di 500 posti di lavoro, e poi anche l'attesa a dicembre della presentazione del nuovo piano di riorganizzazione del gruppo, quindi certo. Hanno messo un po' da parte i numeri e si sono concentrati sulle prospettive. Allora, bene, oggi oltre a ST Microelectronics anche gli energetici: Enel più 1,80, Saipem più 1,70, Eni più 1,30%. Sì, in particolare i petroliferi sono andati bene, tutti gli energetici comunque, come ricordavi tu. Per Eni e Saipem ci sono delle notizie nel dettaglio. Eni ha beneficiato del giudizio positivo di Barclays, che ha migliorato il giudizio da equal weight, quindi mantenere allo stesso peso, a overweight, quindi sovrappesare. Infatti per gli analisti di Barclays il titolo sta trattando in questo momento a sconto del 22% sui concorrenti. Prevedono per il 2013 la migliore crescita di fatturato rispetto a tutte le altre società petrolifere internazionali, per cui un titolo decisamente attraente. Il target price resta comunque a 21 euro. Saipem invece è stata premiata dopo i conti dei 9 mesi, conti che sono andati bene, il mercato li ha apprezzati, ma soprattutto ha apprezzato le stime, la conferma certo. delle stime per il 2012. Diciotto e otto minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Chiara Di Cristoforo, stavamo commentando i titoli in borsa e dopo ST Microelectronics, Mediaset e anche Saipem, anzi su Mediaset potremmo fare anche un approfondimento ulteriore, ma Saipem ed Eni, ricordo invece l'allarme lanciato dalla Volkswagen di un utile in calo del 19%. Andiamo allora su Mediaset, perché qui ci sono c'è l'attesa per i conti di Mediaset Spagna, ma anche titoli minori, e mi riferisco oggi a Amplifon, che è andata molto bene. Sì, partiamo da Mediaset, come dicevi, perché proprio in questi minuti sono attesi i conti della controllata spagnola, che come sempre danno indicazioni importanti al mercato. In generale Mediaset ha perso quasi il 17% in una settimana. È un titolo fortemente penalizzato, l'attesa del calo della pubblicità da parte degli analisti ormai è intorno al 20%, le prospettive sono difficili e sono arrivate in sequenza tutti i tagli di rating da parte dei principali broker, ieri quello di Nomura, quindi insomma il titolo in mattinata è arrivato a perdere oltre il 2%, sul finale però ha recuperato un po' con tutto il listino, quindi chiude con un meno 0,3%. Citavi anche Amplifon, anche qui sono stati dati trimestrali a dare Amplifon a dare la spinta al titolo, più 6% in chiusura. Gli utili sono risultati in calo, ma il mercato ha guardato con interesse ai ricavi in crescita, perché di fatto sta continuando ad andare bene il business in Nord America, e quello per la società è il settore più importante, riesce a controbilanciare la debolezza dell'Europa occidentale, quindi ricavi più 1,3, anche se gli utili sono scesi. Assolutamente, quindi buon andamento del titolo in borsa, ha fatto una battuta terribile. Borgosesia più 10,38%, Sintesi più 19,98%, i migliori titoli assieme ad Ada più 9,93%, peggiori titoli Seat pagine gialle sul risparmio meno 9%, PMS meno 6,20% e poi De'Longhi meno 3,60%. Grazie a Chiara Di Cristoforo per gli aggiornamenti di borsa. Noi restiamo in tema di mercato, perché è un mercato importantissimo, forse interessa in questo momento molto più del mercato azionario, però è il mercato della casa. Diciamo, raccontiamo da mesi che le compravendite, l'ultimo dato di circa un mese fa era un calo del 32% nelle compravendite, vuol dire che sono crollate le transazioni immobiliari, quindi chi compra e chi vende, i tempi si allungano. Ogni volta arrivava la domanda: ma anche i prezzi sono in calo? No, i prezzi fino a poco tempo fa avevano tenuto, comunque non c'erano variazioni così significative come dato medio e aggregato. Adesso invece, e ce lo ha comunicato oggi l'Istat, la situazione sembra, ahimè, per chi deve vendere e invece per fortuna per chi deve comprare, cambiata. Nel secondo trimestre, infatti, di quest'anno, quindi il periodo aprile-maggio-giugno, l'indice dei prezzi delle abitazioni è calato dell'1,7% rispetto al secondo trimestre dell'anno prima. E la cosa importante, a parte il fatto che bisogna sommare poi l'inflazione, quindi il calo reale è più alto, ma è molto più forte, anzi è soprattutto concentrato sulle case già esistenti, meno 3,6%, mentre come prezzi le nuove case hanno fatto un più 2,8%. E la prima osservazione che viene da fare è che dopo una tenuta lunga, perché sia nel 2009 che nel 2010, nel 2011 non si erano visti cali così significativi, adesso a forza di allungare, dico io, il periodo delle compravendite, la transazione vera e propria, si arriva anche a abbassare i prezzi. Però vorrei capire se è realmente così, e lo facciamo con l'amministratore delegato di Tree Real Estate, che quindi Gabetti Franchising Agency, Grimaldi Mobiliari e Professione Casa, dottor Bruno Vettore, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a lei. E grazie anche al responsabile dell'analisi del mercato immobiliare per Nomisma Real Estate, Luca Dondi, buonasera anche a lei, dottore. Buonasera a voi. Dunque, prima domanda per lei, Dondi. Allora, questa è la conseguenza, quindi come nesso causale, che se per anni si allunga il tempo della compravendita e calano anche le compravendite, a un certo momento si abbassano i prezzi? Sì, la conseguenza che arriva con notevole ritardo rispetto ad altri mercati, in genere a mercati efficienti, qui ci è voluto molto, anche se in realtà nella maggior parte dei mercati urbani segnali di flessione anche dal punto di vista dei prezzi si erano già registrati, e infatti questo dato Istat arriva a confermare una tendenza che secondo noi è in atto da almeno qualche semestre. È chiaro che si tratta di dinamiche molto contenute se paragonate alla flessione delle compravendite, che come ricordava lei è nell'ordine del 45% rispetto ai livelli massimi del 2006. E quindi voi dite dopo una tenuta anche più lunga del previsto, Dondi, cioè, abbiamo visto altri mercati immobiliari che erano però più in bolla, penso alla Spagna, all'Inghilterra, all'Irlanda, andare giù subito con l'inizio della crisi. Erano senz'altro più in bolla, però anche sì, qui c'è stata una modifica strutturale, perché il mercato era molto cresciuto in funzione di una disponibilità di credito che è venuta meno tra il 2008 e il 2009, quindi questa resistenza dei prezzi sia del nuovo che dell'usato ha stupito, perché è intervenuta una modifica strutturale di accesso al mercato. Molte famiglie oggi sono impossibilitate, quindi una flessione così rilevante delle compravendite ci si aspettava avesse effetti sui prezzi ben prima del 2010, come in realtà si è verificato. Quindi le famiglie italiane, se posso forzare la sua analisi, i proprietari di casa hanno cercato di tenere duro finché hanno potuto, di tenere botta finché hanno potuto, poi a un certo momento, quando vedi che i tempi si allungano incredibilmente, le vendite calano in maniera drastica, oltre il 30%, inizia anche a abbassare i prezzi. Dottor Vettore, però dentro questo dato ci sono delle differenze enormi: meno 3,6% per le case già esistenti, la maggior parte, mentre le nuove case più 2,8% nei prezzi. Sì, questa è un'analisi, come dire, credo reale, anche se dobbiamo confermare dal nostro osservatorio che anche per quanto riguarda le abitazioni nuove c'è una certa difficoltà di vendita, insomma, quindi sicuramente avendo i costruttori acquistato terreni a prezzi importanti, pagato oneri significativi, diventa difficile in questo momento fare ribassi sostanziali. Ecco, non a caso per esempio si stanno attivando altre forme di vendita come il rent to buy o come altre, insomma, forme per agevolare gli acquirenti senza perdere valore immobiliare. Il rent to buy sarebbe cosa, mi scusi? Sarebbe una sorta di affitto, di acquisto attraverso una forma di affitto temporaneo, cioè acquistare riscattando con i soldi dell'affitto. Ecco, ne ha parlato anche oggi il Corriere della Sera in maniera significativa, diciamo che sta lentamente prendendo piede perché permette al costruttore di liberarsi di oneri e di spese gravosissime tenendo gli immobili liberi, e all'acquirente che magari ha difficoltà di avere accesso al mutuo, e sappiamo oggi che le difficoltà sono enormi, di poter pagare un affitto parte del quale poi gli verrà imputato come a conto prezzo. Chiaramente è una formula ancora che viene applicata in pochi casi, ma questo, come dire, tende a far capire che c'è una certa difficoltà anche a vendere il nuovo. Di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia con Sebastiano Barisoni. Dunque, le prospettive. Dottor Dondi, voi vi attendete che questo, parliamoci chiaro, sia il primo calo significativo di una serie? Oppure se, come prevede il governo, insomma, 2013 si vedrà un po' di ripresa da metà in poi del 2013, magari uno aspetterà un po' prima di vendere, quindi terrà i prezzi invariati? No, non prevediamo nessuna ripresa, credo che questo caso si inserisca in una tendenza di lungo periodo che comporti una stagnazione del mercato dal punto di vista delle quantità e un'ulteriore riduzione in termini di prezzo, c'è una differenza al momento abissale tra la disponibilità di gran parte della domanda e i valori di mercato, per cui c'è bisogno di un riprezzamento ulteriore, c'è bisogno di una quantità di credito assolutamente superiore rispetto alla quantità oggi disponibile sul mercato, per cui è un mercato che continuerà su livelli di attività contenuti finché non ci sarà un riavvicinamento tra domanda e offerta che adesso è veramente lontano. Quindi, per dire a tutte, voi vi attendete altri cali nei prossimi trimestri? Sì, la tendenza è questa e credo che caratterizzerà tutto il 2013. C'è bisogno di avvicinare la forchetta e non prevediamo che questo possa Ma non ci sono anche troppi immobili costruiti? Adesso Milano e Roma non è che rappresentino tutto il paese, ci mancherebbe? Oppure... C'è sicuramente un eccesso di produzione, la stima è difficile, credo che molto spesso ci si scontri sulla quantificazione, ma a mio modo di vedere non ci sono eccessi, quello... ci sono state altrove, però c'è un problema di assorbimento dell'enorme mole di invenduto che c'è sul mercato e che secondo me dovrebbe comportare dinamiche di prezzo sul nuovo completamente diverse rispetto a quelle che ha certificato l'Istat oggi. Quindi lei dice il nuovo dovrebbe costare un po' di meno? Sì, assolutamente, il nuovo in questo momento è nella maggior parte dei casi inaccessibile per gran parte della domanda, per cui se addirittura non si registrano cali non vedo come cioè, ci cioè se viaggi essere... sui 6, 7 mila, 8 mila euro a metro quadro, no, non, in questo momento non è aria. Ecco, su questo vorrei concludere con Vettore, perché l'Istat in realtà ci dice dato molto diverso tra tipologie di immobili. Ecco, voi che tutti i giorni lavorate sul mercato, quali immobili, è difficile diciamo, non generalizzare, però quali tipologie di immobili stanno tenendo meglio sui prezzi e quali invece hanno avuto un calo anche più significativo rispetto alla media statistica? Ma gli immobili chiaramente tengono, gli immobili di una certa qualità che hanno le caratteristiche richieste, certificazioni e caratteristiche costruttive idonee insomma al mercato di oggi, hanno perso molto gli immobili che con il trend positivo 2000-2005 sono comunque aumentati di prezzo seguendo appunto un trend, ma che non incorporavano caratteristiche idonee a soddisfare il cliente di oggi. La zona, ecco, nelle varie aree ci sono stati cali più significativi in aree magari periferiche o in aree centrali perché sopravvalutate o il calo è abbastanza una livella? Ma io guardi, credo che le città, i centri delle città tengono di più, le periferie che si sono apprezzate moltissimo, talvolta in maniera ingiustificata negli anni, perdono molto. E la provincia, ecco, la provincia, soprattutto in quei centri dove c'è un surplus di offerta, come dicevamo qualche minuto fa, obiettivamente soffrono. Dobbiamo dire però, ecco, anche per come dire, dare una piccola nota di ottimismo, che comunque le nostre agenzie immobiliari continuano ad essere frequentate da famiglie che hanno voglia di comprare casa. E spesso non dimentichiamo che chi vende a sconto compra anche a sconto, insomma, quindi una piccola nota positiva dobbiamo pur darla, anche perché in ogni caso noi crediamo che su base annua anche quest'anno ci si possa avvicinare almeno, chiaramente un dato in flessione rispetto allo scorso anno è di parecchio, però intorno alle 500.000 compravendite è pensabile che si possano fare, insomma, quindi questo per dare una piccola nota di equilibrio anche. No, lei ha ragione ed ha ragione anche a ricordare che da un punto di vista economico se veramente l'immobile che tu vai a vendere cala del 2% come l'immobile che vai a comprare, per te il risultato è nullo. Però c'è un problema, che era quello che sollevava prima Dondi, e cioè è l'erogazione del mutuo. In questo momento le banche hanno molta più difficoltà a erogare il mutuo e a tassi, diciamo, come una volta. E allora quello cambia i giochi. Comunque grazie all'amministratore delegato di Tree Real Estate Bruno Vettore, grazie al responsabile del mercato immobiliare per Nomisma Real Estate Luca Dondi. Chiudiamo in bellezza, ossia con la Grecia. c'è l'accordo? Non c'è l'accordo? Saga questo accordo, sembrava chiuso l'accordo tra la Troica, ossia la Banca Centrale Europea, la Commissione Europea e il Fondo Monetario Internazionale con la Grecia per impegnare la Grecia a fare i compiti richiesti in modo da staccare la tranche che serve la Grecia per pagare gli stipendi, la dico in maniera un po' brutale, ma insomma non vado molto distante. C'è, non c'è, ce l'ho, manca. Vittorio Darold, buonasera. Buonasera a voi. Ce l'ho o manca? Ce l'ho e manca, tutti e due, come sempre, nel senso che è un nuovo gioco alla greca. Cioè, il ministro delle finanze ellenico, Yannis Tournaras, ha detto che l'intesa sui tagli che la Troica ha chiesto, tagli per 13,5 miliardi, che sono ancora su salari e pensioni nella grande parte, 9 miliardi, ci sono per il periodo 2013-2014. Manca ancora però un sì da parte dei due partiti della coalizione, che non è cosa da poco. L'intesa prevede che Atene avrebbe 2 anni in più per aggiungere, come chiedeva, l'avanzo primario nel 2016, come chiedeva, quindi avrebbe più respiro, e per aggiungere il debito al 120% non sarebbe più il 2020 ma il 2022. Tutto questo però vuol dire più tempo, e più tempo in finanza vuol dire più soldi. Chi ce li mette? Allora c'è una nuova ristrutturazione che Sturnar davanti al Parlamento ha detto: abbiamo chiesto, dopo aver avuto questa intesa, una nuova ristrutturazione del debito, che come voi sapete si può fare in due modi, in tre, tagliando il valore nominale dei bond, cosa che come hanno già fatto con l'ERCAT, cioè tu avevi prestato alla Grecia 10.000 euro comprando i suoi bot, la Grecia ha detto a un certo momento: no, non te ne ridò più 10.000, te ne ridò 5.300, se non ricordo male la proporzione, che è un po' una cosa all'Argentina, ma insomma questo è. Invece dice: noi adesso chiederemo di dare più tempo riducendoci i tassi di interesse e aumentando la scadenza, allungando la scadenza. Che è l'altro modo, cioè allunghi la scadenza, un po' come se io dovessi dei soldi a te, potrei o dartene meno perché non ce li ho, oppure dirti: dammi altri 10 anni, te ne do allungando e abbassando il tasso di interesse, chiaramente. E questo equivalerebbe a un nuovo finanziamento da 15-20 miliardi. Questo naturalmente vuol dire una seconda ristrutturazione, quindi un altro giro fra tutti coloro che hanno prestato i soldi alla Grecia, che ricordiamo fa parte ancora del primo modo di aiutare i paesi, cioè patti bilaterali con l'aiuto del fondo. E quindi il soldo da Stati non c'è in questa partita, o almeno per ora non c'è. Ma insomma, secondo te, per concludere, si chiuderà questa saga? Non è una tragedia, è più una saga ormai. Sì, assolutamente, anche se bisogna registrare che Bruxelles, attraverso il portavoce del commissario agli affari, Olli Rehn, ha detto l'accordo ancora non c'è. Progressi, perché, ma non è chiuso. Vabbè. Anche se Schäuble, stranamente, il Falco, ministro delle finanze tedesco, ha detto: beh, insomma, se ci sarà da andare al Bundestag per decidere di dare nuovi aiuti, non sarà un problema. Ma è un periodo con l'avvicinarsi delle elezioni in Germania che i falchi, magari anche perché poi c'è carnevale, si tramutano in colombe. Sia Schäuble, che per un anno e mezzo ha detto si può andare avanti anche senza la Grecia se non ce la fa, sia a questo punto Angela Merkel, sono molto molto più morbidi. Grazie Vittorio Darold per questa ennesima puntata dell'Odissea greca. Da Sebastiano Barisoni un augurio di buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.